cui Porto Torres sbarca con 1,3 kg di cocaina nella rotta di scorta e gli danno scamata, sicuramente col cane. E la finanza c'ha quei cani lì, non scappino, no? Quelli lì, cazzo, te la trovano, buonasera, ti pare, ti biasi, ti acciappano. Ma era della polizia, non era della finanza. No, stava dicendo a Porto Torres che sono sbarcati con 1 kg e rotti di droga. Col cane, col cane te la ti trova. No, c'è la polizia lì, c'è la finanza, la polizia. Ci sono anche quelli col coso. Ma com'è possibile? Cazzo. In chi vive tutto? Come arriva la nave lì? C'è la polizia che ti controlla. Si dice che adesso ci avevano, la volta che è andata a Concetta, perché doveva partire un nostro conoscente, e dice che c'erano quelli incappucciati addirittura e non li facevano entrare nel porto, solo quelli che dovevano partire. E boh. Stavo leggendo questo di Pitbull a Porto Torres, lì ci hanno ucciso un gatto e aggredito una signora di 86 anni. Date le immagini. Ma lì bisogna sussare il padrone malamente. Non so, sanzione, non so come funzioni. Cosa, Marco? No, un articolo della Nuova di questi Pitbull a Porto Torres che hanno fatto danno. Sì, si è assicurato, è Rugani Musica Giacuno, c'è un bigliano e burri mutanti, dimmi. Mamma mia, questi cani però, non lo so, certe razze dice no ma sono buoni, sono pregiudizi, ma è sempre quelle razze sono che fanno casino. Quindi secondo me una predisposizione genetica ce l'hanno, altro che no. Tutti bravi a sentire i padroni o gli amanti di quelli degli animali. Certe foto si girano anche con i padroni. Ho visto certe foto su internet di, come si chiama, di obitorio, gente aggredita dai propri cani, per carità di Dio. Ma è vero, ma poi sono i padroni che sono disgraziati, che li picchiano, li fanno questi cani, per forza si girano. No, ma non lo so, io ho visto anche... Aspetta, telefono. Cattalino! Finito. Adesso devo andare a prendere a Marco che esce dal lavoro. Saluta in radio. Ha chiuso, va, non ammala. Oh, anda bene, Meda. Chi era? No, niente. E invece sai che gli sta scocciando? Cioè noi lasciamo il telefono staccato, la volta che lo attacchiamo chiama Paoletto. Vuol dire che o tenta di chiamare tutti i giorni, oppure lui c'ha l'avviso di chiamata, cioè ti dice l'utente è di nuovo disponibile e richiama. È una zecca Paoletto, per una volta gli ho dato corda. No, non gli dare corda, sennò mamma mia, non te lo scateni più. Non sei mai dimenticato di te, Marco. Sì, poveraccio, va. Adesso gli piaceva che la sorella non vuole, gli piaceva il baracchino, è anche un lineare da 1 kW, così non parlate più. Parlate con muro. Non la fa mettere, no, non vuole. Sì, che a quanto mi ha detto lui l'ha avuto a sorso, però gli hanno tipo tirato giù l'antenna, non ho capito bene cosa mi ha detto, gli hanno fatto danno. Forse mi turbava. No, credo fosse l'UCB, proprio per così. E d'altronde. Vabbè, riprendete voi che mi sa che questo caffè lo faccio, perché qua sono sempre una specie di larva. Oggi proprio non va. Devo anche comprare roba, no? Domani, rimando domani perché oggi no, proprio non me la sento. E poi c'ho questa specie di leggero fastidio alla gola, come che avessi preso freddo. Vai Gianni, riprendete voi. Ehi là. vi dico che cosa c'è qua al quadrato. C'è la Misericordia che sta piazzando un tendone grande, c'è il gruppo elettrogeno, insomma di tutto e di più. Deve essere c'è qualche cosa, qualche manifestazione. E magari sono addestramenti loro. Non lo so. C'è anche Roberto Sibi della Misericordia, lo sai? No, quello non lo sapevo. Sei iscritto. Sei iscritto. Vabbè. Comunque io adesso devo aspettare che Marco torni da Burgos. Eia. Ma come arriva? Col pullman? No, sono in coppia, lavora. Ricordi i tempi della Croce Blu? E il satellite mi aveva proposto, che ero piccolo io un po', se voleva entrare, però dice mi non faccio fare brutte figure, cioè se tu ti senti male che quando vedi il sangue è meglio che non ci entri, ho detto no, meglio niente, per carità. Quando vai a tipo vittime di incidenti stradali, no, non è per me quella roba, no. Ma io lo so perché c'era la Croce Blu quando c'era Santo Satellite. Ero la Croce Blu io. Però non ti conoscevo io, oppure non coincidevano i turni, non lo so, io un paio di volte ci sono stato. E mi ricordo che le radio erano strane, era come, non sembrava nemmeno una radio, sembrava una specie di interfono, diciamo questo gambo sottile, la radio della centrale, dico. E quelle Novel erano, c'ero anche io la Croce Blu, una l'ho piazzata io nell'ambulanza. E che poi c'era anche quello dell'RZ1, di cui non ricordo ancora, Gianni già lo sa. La Duzza, E poi c'era Emilio quello non vedente. Sì. C'ero anche io lì. Ai tempi di Sandro Sattelli. Eravamo entrati assieme. Anzi, io ero entrato per far compagnia a lui. E io adesso rilancio Gianni. Mi ricordo che c'era anche una donna con gli occhiali, un po' robustella, con gli occhiali che aveva il terrore tipo delle armi, anche se le mimavi la cosa o portavi una pistola a sabbia e gliela facevi vedere, sì, aveva il terrore. Gianni, ti ricordi? Pina sì, da Sardari. E dice, amica e figlia, no, non le voglio sapere, non le voglio vedere. Adesso poveraccio Adriano se n'è andato, Natalia. Poveraccio, mi dispiace. Ma ci mi? No, il presidente della Croce Blu, di quando c'eravamo io, Satellite e altra gente. Aspetta, avete parlato in due, Gianni, ripeti. Ho detto che Adriano era il presidente. Ma per caso era uno che aveva un difetto un po' gli occhi o l'occhio? No, quella era Pistoluzzi. Hai ragione, che qualcuno cattivamente chiamava occhio di gomma. E Pistoluzzi quello era. Quinto Pistoluzzi quello era. E quindi era una radio Novel, così è. Caspita, mi hai ricordato quella marca lì quanto tempo? Sì, ma ci avevamo i ponti noi, parlavamo anche con Oristano, Cagliari, con tutti quanti. La sera, se ti vuoi fare una chiacchierata te la potevi fare. Ricordo che aveva anche un bip bitonale la base, faceva tli, tli quando mollavi. Ehi, cava, ben ricordi lì. I tempi della RZ1, ah già, che tu eri ti ricordavi sempre che ritrasmetteva. Invece poi la RZ1 era un ricevitore, faceva in pare dai 60 ai 905 MHz in FM, FM stretta e FM larga, quella delle radio 8808. Era bello però, eccolo. Solo che costava già un patrimonio, per me non potevo permettermelo. Cavagala. Quindi adesso come sta arrivando? Adesso sono fermo al quadrato e voglio sapere come arrivo. 9 più 10. Già va bene, là. Non possiamo pretendere tanto. No, ma conta sempre a tale già che io ho i palazzi di Luna e Sole che comunque mi coprono otticamente la tua zona, Quindi quello è di lusso, anzi ti dirò che altre stazioni da piazzare sedi arrivavano 9, non più di 9. Già va bene questa antenna, dai. Già va bene. E l'antenna a Natalia adesso meglio vado da questo punto. Non ho capito. Se da questo punto adesso sta arrivando meglio, ho detto. No, stai arrivando qua. Scappa. Va bene, va bene. Comunque no, guarda che è un bel mi, cioè noi lo consideriamo segnale medio, in realtà è considerato su quella scala, adesso ve lo ricordo, un segnale forte, strong, diceva la scala. Sì, da 9 in poi sono segnali forti. Vabbè, così, l'ho regolato bene, era il parlascolta troppo alto. Sì, e poi nella macchina rientra di più, perché chiusa praticamente gli rientra subito l'audio, capito? Non è come la stanza che... Peccato per qui gli apparecchi che in macchina fischiano, non li posso utilizzare, io li avevo presi per la macchina, ma pazienza, vabbè se non è uno è l'altro. No, questo qua va bene, io l'ho sempre utilizzato in macchina, adesso perché deve essere spolverandolo, toccandolo, gli ho alzato il Mackie Gain. Ehi, poi la modulazione ti ho detto, di quella che piacciono a me, limpida limpida. Un po' come uscivi da casa con lo va ui il sa delta scappa. Questo è un microfono normale che io, vabbè, era il microfono del Magnum, la scatola del Magnum, ma l'interno non è del Magnum, dai, è un microfono che ho tolto Capus da un altro e messa qua perché mi stava difettando, non capivo se era il PTT o la Capus, ho preso Capus, la PTT e l'ho cambiato, così ho risolto il problema senza nemmeno stare a provare. Sì, i risultati sono buoni, dai. Poi quello non ha manco bisogno di amplificati, esce già bello di suo, bello, una modulazione decisa, dai. Va bene, stacco, io stacco, riprendete voi. Sento di fare il suo benedetto caffè. Ah, io sono andato e me l'ho fatto, e sono andato alla macchinetta e me l'ho fatto. Caspittina. Mi la vinendi. Ma ascolta, lei devo comprare. Come si chiama? La Biocco. Ti stavo dicendo. E che lavoro sta facendo Marcolino? È entrato con una ditta di energia elettrica. Ah, ho capito. Comunque già, seconda di come moduli, segnale 915 pieno mi. Cioè quando moduli magari un po' più distante, tipo così, è 910. Quando parli più forte, che la modulazione più forte arriva a 915 pieno. E quindi non ti puoi lamentare, dai. Capo, ho capito. Anzi, ti dirò quasi 920, ecco, a sfiorare il 920. Oh, già, ti volevo dire, hai detto ditta di roba elettrica, ma lui che cosa aveva fatto di... che diploma aveva lui di... cosa aveva fatto, le professionali o roba del genere? Oh, sto uscendo. Ehi, scusa che stavo parlando con quello della misericordia, stavo chiedendo che cosa faceva. Dice che fanno una serie di streaming, medici, eccetera, eccetera. Screening? K. Ah, buono sapersi. Se è roba che posso, a cui mi posso sottoporre, a gratis ci vado. E io ho fatto quella delle orecchie, l'esame l'altro giorno. In farmacia mi hanno detto che era gratis e mi sono sottoposto. Ma metti che li facciano, controlliamo la prostata gratis. No. A posto. Ti controlleranno la glicemia, queste cose qua. Cattolo, mica sono ben organizzati, ci sono gabine dell'Ened. Anche la misericordia è ben organizzata, c'è anche i tre assi, addirittura camion tre assi, c'ha gruppi elettrogeni, di tutto e di più. La misericordia sì che sono organizzati. Cazzo, adesso non c'ho neanche la patente per poterlo portare il camion. C'ho la misera B. Poi c'hanno tende da campo, di quelle enormi, di quelle cazzo proprio enormi, grandi, grandi. Sono ben organizzati, cavolo. Addirittura c'hanno anche il coso, la ruspa, tutto. No, non saranno capannoni per vaccinazioni, no? No, mi ha parlato di screening mediche, poi non lo so. Ci sono molte sedie, ovvero molte sedie tipo come quando c'è il pubblico per guardare qualche spettacolo, così hanno messo le sedie tutte in fila, ma penso che sia dovuto per quelli che devono aspettare per fare gli esami. Sì, ogni tanto fanno queste cose anche per le donne, il controllo del seno, gratuito, no? Per vedere se ci sono noduletti, cose utili, dai. Vediamo un pochettino cosa stanno facendo. Noi facevamo le simulazioni in Piazza d'Italia, abbiamo fatto di incidenti stradali, dei massaggi, di tutto. Quando era la Croce Blu l'avevamo fatto e c'era anche io. Quelle sono interessanti, simulazioni anche per cose di emergenza, no? Soccorso di persone, rianimazione, come usare, come fare anche una, come si chiama quella cosa, tracheotomia lì, quando c'è le vie ostruite che devi incidere, mamma mia che cosa brutta, mi sento male a pensarci. No, ma quello lo fanno i dottori, noi non lo possiamo fare, noi al massimo possiamo incannulare. Io ho incannulato una volta un tipo che era in coma etilico, e quando sono arrivato al pronto soccorso il dottore ha detto: chi è che l'ha incannulato questo signore? Io guarda, ho detto: ha giù fatto danno. E gli ho detto: io perché? Bravissimo, non gli ho fatto un graffio io. E lì avrei avuto paura a rispondere, non sia che avessi fatto danno davvero. Mamma mia, è un rischio aiutare gli altri, certe volte è un rischio. Marco, dimmi Emanuele. Ma dove mai aveva così basso Gianni, dov'è? Gianni è in macchina, tipo Piazza dei Segni. Ah, lo vai a casa sua, cosa ne sai? No, Emanuele, tu è che mi senti in basso, ma io alla Terrocci arrivo bene, e tu è perché c'hai quell'antennino. No, io sono in macchina, dai. No, pensavo che era a casa tua, casa di Stanley Seix, Maria Crano. Ma mi ascolti lì in Piazza dei Segni? Oh, già. Ehi, ad il radio ti ascolto bene, ma di segnale sei basso. Di segnale sei basso. Vabbè, magari anche il punto dove sono, a volte basta spostarsi appena appena, Emanuele. Ehi, no, va bene la radio, siamo in adesso. Va bene così. Va bene, riprendete voi, riprendete la Marco lì. Ti ascolto. Ciao, Fiorellino, non mi saluti a me. Oh, briciola, pensavo che non c'eri tu, non ti senti, sono entrato così, però non stavo ascoltando, dai. Ciao, ciao, Brigido, già, io già ci sono. Allora, se non c'è Iva, avanti, Marcolino. Ehi, ciao Emanuele, sì, per fortuna, anzi Emanuele ha questa radio forte, se avesse avuto magari lo stesso segnale, ma un Polmar, tipo quelli omologati che non escono in radio, non l'avremmo nemmeno copiato. Va bene, comunque questo caffè tarda a venire, io non riesco a staccarmi, allora bianco per me, non riprendo, riprendete voi, vai Gianni, e comunque arrivi 9:20 adesso. A me Emanuele mi arriva in Santiago 9, no? No, qua è 107, un po' meno di 7, da Gianni non saprei, fatto Gianni non capisco se è in movimento, oppure no, e sta arrivando 9:20 adesso, Gianni riprendi, bianco per me. Cappa, ehi a Marco dai, ho detto... Di solito lo sento bene anch'io a casa, però da qua ci sono degli ostacoli, magari per quello che non lo sento, sono palazzi, eccetera. Capito? E anche Gianni mi arriva a 9, è oscillante. Avete parlato in due, ripeti Emanuele. Emanuele deve essere si è spostato. Io vado a fare shopping. Oh signor. Continueremo a farlo. Ma sei in movimento già tu? Ignorando. Oh, si ferma. Marco, te l'ho detto. Sto aspettando che mi chiami quando torna per andare a prendere. Io ho capito. Chi è là? Cazzo, è caldo il sole, non sei andato oggi a Platamona, Natalia? No, non ci sono andato. Sì, io ho scritto. E poi non so se posso andare domani, bisogna vedere se fa sole, perché io vado per pigliarmi il sole, mi capito, appena di sole vado. Perché domani sul tardi viene Franca a guardarmi la lavatrice, se è il caso che la debba buttare via oppure se si può aggiustare. Però se è di quelle sigillate mi sa che me la dovrò comprare nuova. Guarda sempre se c'hai la garanzia Natalia, magari te la possono cambiare. Oh, non mi ricordo manco dove l'avevo comprata. Immaginate pure un po' di... E ce lo dovrei avere, Mila. Ma risparmio cassa. E andiamo lì se c'è la cambiata, cosa vuoi ti dico? Mi, belli. Però lo devi cercare prima che la tocchi, Franco, perché se la tocca poi non te la cambiano più. Ma se di quelle sigillate non ci puoi arrivare al cuscinetto, se il cuscinetto, hai capito cos'è il discorso? Se non ci puoi arrivare la devi buttare via, perché non lo puoi cambiare tu, perché è sigillato. Dice che le stanno facendo con le vasche sigillate ed è un macello quelle, perché questa è nuova, ce l'ho da poco tempo io, perché da quella che avevo vecchia mi si è crepato il cestello, quasi è un rumore, ho dovuto buttarla via. Ma mi avevo 30 anni però, chissà cosa raggio, 1 o 2 anni, non di più. Io Natalia, a me mi si è rotto il perno che fa girare il cestello, le l'ho fatto cambiare, ho speso un sacco di soldi, però mi ha detto se lei la cambia vanno tutti in plastica, va, questa qua è tutta in acciaio, se la cambia il perno le dura altri 10 anni come minimo. E infatti, ma Isa sarà di plastica, è di quelle nuove mi questa qui, quindi se è di quelle sigillate manco la tocco, la prendo, ce la butto e vado e me la compro nuova. E cosa vuoi fare, cazzo, sempre spendendo soldi stiamo. Prima mi si è cribato anche a Don Fernando, mi si è cribato il frigorifero e mi è dovuto comprare il frigorifero nuovo, adesso la lavatrice sempre, non si viene mai di pindino. E non lo sai che è così Natalia, non lo sai, è sempre stato così, quando ti si faccia una cosa da poi tutti gli altri cosi vengono appresso. Allora, ma avevo comprato questo bel frigorifero, te lo ricordi? Cazzo, quello lì mi si sono marcite le cerniere della portiera, tiraggio, ho dovuto lampare. E mi ho dovuto comprare un altro così. Perché a me mi serve col freezer, con i cassetti, poi mi serve il freezer grande e l'ho dovuto comprare così. Cazzo, ma la lavatrice sei barrata. Speriamo che non mi tocchi cambiarla, perché sennò... ce l'ho da poco veramente, questa qui non mi è durata nulla ed è di marca. Lo so, ma l'avevi detto, eri contento anche come lavava la roba, la lava molto meglio dell'altra, la roba la fa pulita, eri anche contento che come l'avevi comprata, me l'avevi detto. Infatti naturalmente ce l'ho da poco, ce l'ho cattala, ed ero contento perché lavava veramente bene come lavatrice, era meglio dell'altra. L'altra vabbè, bilavi un gattina vicia che cucù, però Vicia lavava veramente bene. Se ce la devo buttare mi dispiace che non la trovi che lavi così bene. Vabbè, certo, avevi trovato quella che lavava bene. Vabbè, molte volte anche il detersivo, ma tante volte anche la lavatrice, che se non va bene non ti lava bene la roba. Mi sta mettendo quello liquido, il detersivo, proprio per non rovinarla. Mi va sì, va a ruberla in plastica proprio, che vero gestello che è bloccato. Quando ha girato è uscito anche il fumo, cazzo, un fiaco di bruciato. Io penso che ce la devo buttare. Ma va la ruberno di gomma, come ti mi senti tu, e bisogna la pazzia. Questo qui aveva il perno, l'ha aperta da sopra, gli ha cambiato tutto il blocco da sopra, ne ha cavato invece la buttato, un tipo di sorso me l'ha fatto, che lavora la Whirlpool, quella che c'è, che via è quella lì, non è via Montello, non so che via sia, forse via Gabriele D'Annunzio forse. E vabbè, comunque la volava lì, quella che poi si è incendiata, ce l'hai presente dov'è? C'era il rifornitore di Fabbro scendendo verso giù. Ho capito. E via Montello e chissà. Cosa ti volevo dire? Però la tua se lo valeva perché c'aveva il perno in acciaio, c'aveva. E quella lì dura. Invece chi se si danno in plastica come ti miseri senti, si vuole i lampadi e buh. A me mi ha detto, con i soldi che spende per aggiustarla ne prende una nuova, però quelle nuove le durano da Natale a Santo Stefano, perché hanno tutte in plastica. Questa qua è una signora lavatrice, c'è stelle in acciaio, tutto in acciaio c'ha. Se le la cambia, glielo cambia, gli mettiamo l'originale, perché ce li abbiamo i pezzi, e niente, 200 euro. Allora l'ho fatto fare, perché adesso dopo che l'ha aggiustata, ce l'avrò altri 10 anni, ce l'avrò dopo che l'ha aggiustata. Comportamento impeccabile, tra queste anche il divieto di piercing e tatuaggi. Perché quelle se lo valgono, ma in generale perché sono lavatrici serie, fatti con coscienza. Paga quanto la invece, paga? Beh, non lo so, solo la giusta l'ha pagato 200 euro, ma era un pezzo in acciaio, però con c'è, non si faccia mai. Natalì, l'errore è stato mio, l'ho caricata troppo, la roba non girava bene, sforzava e si è spaccato per quello. Essendo in acciaio si è spaccato, sì, però cazzo, ti dura una vita quando è così, non è così che ti fascino. L'acciaio non si piega, l'acciaio si rompe direttamente. Ha sforzato troppo, ho fatto un lavaggio troppo pieno, sicuramente ha sforzato, non ce la faceva girare e sforzava, alla fine si è gribato. E come ti è successo a chissà che c'è chi va più io? Già via mi un anno, chissà la lavatrice, io dico ce l'aveva 30 anni Concetta, quella lavatrice che ci si è rotta, quella sì che era una lavatrice seria. Quella l'avevamo comprata quando ci siamo sposati. Cazzo, dimmi tu, va chissà, mi è durata da Bacca a Sant'Icevano, davvero, mi è durata. Non si finisce più di spendere, e ho cambiato il televisore, e il frigorifero, ora la lavatrice, dimmi tu, non si finisce mai di spendere qua. E a dartene di soldi sempre di meno. Infatti a entrare con un bere di là, ma i cizi in 5 minuti sei senza di là. Poi quando vai a fare la spesa, le 50 euro valgono 10.000 lire valgono. Infatti con 50 euro cosa compri oggi? Non vale ne più nulla i cizi di là, stanno poi c'è cura a terra con 10 euro. Vabbè, e che vuoi va? Non vi potremmo fare nulla, no? Purtroppo a entrare ci mettono un mese, però a uscire, se non stai attento, guarda, ti cesci neanche di una bizzeri di là. Io me ne accorgo che la roba non si può comprare. Quando vai a fare la spesa, gatta, ti cesci lì di là come te niente. Io Natali la roba da mangiare non me la faccio mancare, però arrivati a fine mese devi stringere, perché poi non vi lavvagi, no? Io sono nelle tue stesse condizioni, se non peggio. È così. Siamo tutti nei amatessi vacca già. C'è una spesa in più, qualche diciamo spesa tipo quella che hai avuto tu adesso. È un casino. Infatti, è un macello. Adesso se me la devo cambiare, chissà quanto mi costa comprarmi la lavatrice nuova. Dimmi tu. Manco mare che io biglio tutti in contanti e non faccio buffimi. Perché se io non ne ho soldi non ne compro di roba. Perché le cambiali li dimmo. Ma la cambiale non li fate di più, ma è visore finanziaria. No, io lo stesso, grazie a Dio, non ne ho di buffi. Però niente. Non bastano lo stesso Natali, chi c'ha la ragione, se strafai poi non ce la fai più. Sì, infatti, se ti buoni i ributti, sei butti tu, Jimmy. Cazzo. Prima di ributti puni, ma va, con chi sui cuocia la roba, no. Non arrivi a fine mese se non stai attento. Io a fine mese devo andare sempre in banca a ritirare i soldi, perché non mi basta. Lo so, lo so. E a me lo vai a dirlo. Già lo so cosa costa oggi la vita. Gesù Cristo mio, cazzo. A gattruppe, a cannuta, boh boh. Sì, è vero, mi. A baita ci si lamenta niente di chi si go. Ehi, ma te si dirà nutri, vani. Soia, il Dago stava lamentando perché prendeva solo 2000 euro di pensione. E cosa vuoi che sia? Ma che sa niente, 2000 euro sono spiccioli. Emilio Fede, se sei andato tanto lontano, si è lamentato a chi gli davano solo 2000 euro, a lui non gli bastavano per la vita che faceva, c'aveva l'autista, c'aveva il giardiniere, capito? Quelli sono abituati a ben altri tenori di vita. Cazzo, chissà quanto pigliava di stipendio quando era a Mediaset. È logico da voi a vedersi con questi pochi spiccioli, l'autista non lo può più mantenere. Hai compreso? Erano i papà e ciccia con Berlusconi, che domani non l'aggiunta. Berlusconi non entra più nulla, che va a comandare tutto Pier Silvia comanda. Berlusconi si mi dice, dove è Berlusconi? Io do 80 anni, va, la gente mi sto telefonando. Tanta lì. Attenzione, binario 10, cambio. Oh signor, avevate chiuso, io ho fatto il caffè, pigliato con mamma anche un dolcetto assieme, quelli, sai quelli buoni, gli occhi di bue, mamma di turchi. No, io ero al telefono, ho abbassato l'audio perché ero al telefono e mi ha telefonato una persona, capito? E allora gliel'ho detto io a Gianni che magari è arrivato il figlio e per quello che non parla. Va bene. Che ora è? Ancora le 7 meno. Quanto è un quarto? Sì. Perché forse è arrivato il figlio, mi non stava parlando per... Oh, io già l'ho avvertito che ero al telefono. Ah, ok, stavo parlando in due. Già ho capito, da. Ho detto quando non devi uscire, quando non puoi uscire che magari non te la senti, sembra che le serate non passino mai. Già lo so, io me ne volevo scendere a Platamona dopo pranzo, ma non ho potuto, capito? È un macello quando è così. Perché c'è un po'. Oh, yeah. Vabbè, male mi sento, c'ho mal di schiena, dopo qua una larva umana sto diventando. Bisogna avere pazienza, qua malighinzi lo stesso. Vabbè, niente di grave, però ogni adivine una. Io volevo dire a Talì che io appunto se il tempo tiene in settimana, penso fine settimana, devo andare in campagna che devo tarare due ottiche, una è una 4x e uno è un semplice red dot senza ingrandimento, però a taglio di ottica ne ho una attaccata alla 22, dura di vini. L'avevo vista, no, forse avevo visto la 22, ma non l'ottica. Ma è già attaccata adesso? Sì, sì, anche tarata, perché io ho il laser, quello per mettere dentro la canna, no? Tu vedi il puntino e ti tari l'ottica, il puntino rosso. Esatto, anch'io volevo utilizzare una cosa simile, non simile, quello, in modo proprio da passare attraverso la capo, naturalmente lo sai che il proietto non è come il laser, no, va un po' più a coso balistico, no, traiettoria balistica, sale un po', poi tende a calare in base alla distanza, però grosso modo è meglio che niente. Ok. Eia. E beh, cosa volevi? No, no, quello volevo dire, che se il tempo tiene, fine settimana mi faccio delle tarature in campagna, che lì c'ho fino a 50 metri, non fino, anche oltre i 50 metri, e c'ho una specie di treppiede, come si chiamano, quei cavallotti di legno per lavorare, per fare, lo uso come appoggio, capito? Anzi, ti dirò che se trovo anche un morsetto per immobilizzare il tutto è meglio ancora. Perché così magari tiri e poi stari l'ottica senza muovere lo strumento, chiamiamolo così. Il mio ragazzo c'ha anche lo zoom, quell'ottica che ho io per la 22, è di lusso. Però mamma mia, le ottiche ti prende male, cioè se non hai la mano ferma vedi questa immagine che balla e certe volte la preferirei meno spinta l'ottica. Già 4x è una seccatura. Sì, vedi meglio, vedi più vicino, però usano 2x, 2x5x, non vanno oltre, non usano mai più spingare. Vabbè, se l'appoggio è un altro discorso. Noi usavamo quei cricchi a triangolo. Aspetta, filtri a triangolo, cosa intendi? Il cricco della macchina. Ah, cricco, ho capito, filtro. E che filtro? Cricco. E tu il fucile lo appoggi lì, gli metti dei sacchetti di sabbia magari, no? E per non graffiare il fucile. E lo attacchi lì al cricco, no? Ti buschi un cricco vecchio e te lo fai. E ti fai l'alzo come vuoi tu pure. Che non ci sia vento magari, se c'è vento ti influisce, per quelle cose lì influisce. Certo, ti devia. Deve essere una giornata calma, che non ci sia vento, perché quello influisce molto, specialmente sulle armi ad aria compressa, che non sono molto potenti, quindi un po' te lo devia. Non solo. E ha detto non solo. Leggi il messaggio. Marco, ero in cucina, stavi dicendo che non ho copiato. No, dicevo, leggi il messaggio. Il messaggio? Ok. KK. Eia. Va bene. E così mi diletto un po', dai. E se no qui a casa comincia a diventare rischioso, capite? Non c'è spazio. E lì no. Va bene. Vediamo se è entrato Gianni. Puta, vediamo se è entrato Luca Flipper. Niente, ci hanno abbandonato. Mi ero allontanato un attimo. Non c'è un'anima nemmeno al 23. Non c'è nessuno oggi. E il 23 entrano dopo le 7. Ah, dopo le 7, c'è un'oretta in tutto e boh. Sì, è alle 7:30 se ne sono andendi, 7:30, tu. L'ora di cena ufficiale è quella, dai, le 8 soprattutto. Noi tipo mamma alle 10:30, io preferisco aspettare, tipo alle 11, perché prima non mi viene fame, ma sai perché? Perché poi noi stiamo mangiando questi pasticci, no? Tipo alle 6:30, 7, e il caffettino, e l'occhio di bue, e il cioccolatino. Perciò non abbiamo fame alle 8, capito? Io lo credo bene. Poi lo pagherò tutto assieme, ovviamente. Devo controllare la glicemia, perché vabbè, era non male, però prima se era media, tanti anni fa era a livello medio, adesso un po' leggermente sta spostandosi verso il medio alto, quasi, però ci siamo già medio alto, un po' arrivando. Stai attento, non deve superare i 118. Adesso vabbè, non mi ricordo più i valori, però le avevo controllata. Dopotutto però nel complesso, vabbè che sono analisi base, però erano discrete, non dico ottime ma discrete, ma allora perché mi sento sempre stanco, questa spossatezza? Vabbè. Può essere anche mancanza di vitamina D, perché anch'io sono così, E poi Giuseppe, l'inquilino del piano di sopra, siccome anche lui ha questo difetto, ha detto che ti provoca stanchezza, queste cose così. E poi i medici, boh, non ne vengono a capo. Vabbè, quello era dubbioso, quello, come si chiama, il neurologo, quello dei muscoli là. Dice sì, non c'è niente anche nell'elettromiografia, però era un po' titubante, mi, come se fosse una forma leggera, molto leggera, distrofica, mi, quelle che magari non ti danno conseguenze gravi, però sei sempre moscio. Poi ti ho detto, non è la vitamina D, Natalia, è la vitamina F. E anche, ma è anche perché sei sempre chiuso, come te e me. Uno quando rimane sempre chiuso, per forza gli viene quella carenza lì. No, anzi Natali, conta che io uscendo in moto prendo molto più sole in viso, certe volte mi arrostisce la faccia, siccome dove sei. Adesso poi le giornate miglioreranno, il sole sarà più forte, più intenso, il caldo aumenterà purtroppo, perché per me il caldo è la morte, ma tant'è. Io mi ricordo quando ero piccolo, le estati erano miti, erano più miti, non c'erano questi caldi tipo due mesi fissi a 30 gradi all'ombra, minimo, non erano così. Lo so, purtroppo è un macello. Anche a Milano nel 2018, quando ero andato? 2018 mi pare. Poi Milano al nord sarà più fresco, un cacchio, un forno, 30 gradi fissi, tipo tutto il mese, vabbè, sono stato, quando era, 12 giorni, credo in tutto, ma c'era un forno, ma ti dirò che nel giardino dell'ospedale c'erano le zanzare tigre, cosa che io non ho visto qua, a malapena una volta l'ho vista, ma lì ce n'erano un bel, ti si poggiavano addosso, ho detto qua praticamente vengo a curarmi al nord e magari mi becco una malattia africana. Quelle tropicali. Ma poi a Milano è perché c'ha questi corsi d'acqua anche, credo, e le zanzare proliferano lì. Come si chiamano? I navigli, così? Sì, laghi, ci sono i navigli, là. E dalle me. Oh, ieri notte ho messo il cotone per non far rumore di notte, il cotone sul martelletto che colpisce questo gong del, e poi è caduto, niente, come il martelletto si è caricato, no, è caduto il cotone giù e ha suonato lo stesso. Sono qualche fantasma pure, lo fa apposta. Oh Natali, sai che quella cosa l'ho cercata disperatamente in versione mimetica, tutta mimetica, meravigliosa era, ed era anche tutto di serie, ti davano tutto, niente, introvabile, si erano tutte vendute e non le stanno più portando, l'importatore Bignami si chiama, sì, Bignami, quello caro, poco è caro, non le sta più portando in Italia quelle lì, le ha esaurite e non le sta riportando, invece se tu vai a vedere in Europa, in Europa le vendono, dalla Francia le vendono. Neanche poi. Luca Flipper te la può fare mimetizzata. Sì, ho visto quella tecnica, sì, verrebbe anche una fighissima, verrebbe anche. Solo che dice molte pieghe, molte rientranze, non è una cosa un po' pianeggiante, capito? È un po'. No, si può fare, già viene. Tanto in fabbrica lo fanno così, mi cosa credi? È una copertura mi. E Natali, ti volevo dire, sai che non si può andare a caccia con quella? Cioè, puoi andare con mezzi simili a caccia, naturalmente a chi è cacciatore, ma con quella no, non è prevista. E cosa vuoi che ti dica? Manco con la 22 che ho io puoi andare a caccia. Ma perché non è catalogata, come catalogata? Cioè, catalogata, aspetta che c'è un vuoto, com'era? Allora c'è l'arma comune, che di solito sono per difesa, le armi sportive per sport, ma la caccia è un'altra categoria, adesso illuminami che non mi ricordo. No, proprio è vietata la 22, perché è molto pericolosa e silenziosa soprattutto. Oh. Eppure, cioè, 22 comunque lo sparo lo fa, che non sanno cosa inventarsi. Aspetta che te lo scrivo là, dai. Se vuoi ti impresso la mia, ma 9x21. Una cosa 9x21. Non l'ha già vero, chissà. Senti, volevo dire, stavo messaggiando a Emanuele, eccomi qua. Ma che sta Natalino, Marco, lì. Se vuoi, se vuole riprendere la mia, la 9x21. Lì si copri nel caricatore, uno in canna, sono 16, a Vulcan. La voglia sì, cos'hai, Beretta o Glock? No, Beretta, 9x21. Via, beh, quella è stata l'amore principale, dai. Perché la Glock era strana, è tutta squadrata, però non è male, ce la sto apprezzando. Credo che non mi piace il sistema di scatto, però. Boh, non lo so, il grilletto è strano, è come se fosse è parzialmente precaricata la corsa del cane. Del cane interno, quello che è il percussore lanciato, quello che è. Natalino me lo sa dire, ma tant'è che lui aveva dovuto alleggerire lo scatto, così è Natalino. E io avevo comprato un pezzo per alleggerire lo scatto. Infatti la mia se non mi sa. Natalino, cioè tu facci capire da bene. Emanuele, poi avevo sentito che stavi lavorando come uguale giurata, adesso hai ripreso, ma tu fai turno armato oppure tipo portierato normale? Adesso dove siamo stiamo facendo solo portierato, si può dire che stiamo facendo guardia giurata, però non armata, però adesso dobbiamo prendere servizi che ci vogliono le guardie armate. Per esempio, vabbè, portavalori è obbligatorio, credo pure, cioè, quella è una cosa già importante, delicata. Quella la devi avere, a parte la non usi la 9x21, bensì ti danno la mitraglietta. Oh, si usano ancora? Io mi ricordo ai tempi di... ti ricordi Mario Mao? Beh, l'avrei conosciuto, dai. E... mi ricordo quando ero molto piccolo io, lo vedevo alla al banco di Sardegna in Piazza Castello, che aveva tipo un M12, sembrava, almeno credo di ricordare, una specie di mitraglietta. Poi ero piccolo, lui, vedevo quest'uomo alto, armato, faceva soggezione. E ci lavorava la banca mio fratello lì alla banca. Ma adesso recentemente, in tempi più antichi? Adesso è tutto cambiato, adesso è tutta un'altra cosa. E io poi sono rimasto come regolamentazione indietro, come testi anche sulle armi, roba risalente agli anni 70-80, molte cose sono cambiate, vabbè che... per usi diciamo lavorativi è un conto, dai, io era a livello così, come dire, mi acculturavo a livello di passione, solo scritta però meno. No, ma adesso lì sui portavalori ho fatto due volte, perché io facevo volantinaggio nelle ville, facevo piantonamenti, e lì quando devi andare sui blindati devi avere anche gli occhi dietro. Non è come qua, lì devi stare molto molto attento. Chi è Bombolo? Anto, tu sei. No, non è Antonio, Antonino è. Ma com'è? Perché già con l'eco non si capiva nulla, hai fatto una tonalità di voce alta, sembrava Antonio Bobro quando chiama. Addirittura così, no, comunque quell'eco è veramente, cioè, non si capisce proprio nemmeno la voce quando è a manetta, cappa. C'è Emanuele e Natalino almeno, a meno che non sia andato a mangiare, allora è quella. Salutone a tutti. Eia. Anche Gianni c'era, ma forse è tornato a casa, devo pigliare il figlio. Gianni ci sei, tutti morti, anche a 23 tutti morti. Attenzione, canale 10, no, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla, tutti morti. Manuel. No, io ho chiamato, vabbè, Natalino, ho chiamato Gianni, non forse sta uno mangiando e l'altro a zonzo. Ma c'era Manuel poco fa. E io? E che fine ha fatto? Magari è andato a fare uno spuntino. Sempre mangiando, boh. E beh, d'altronde anch'io Ecco perché poi non mangiamo orari normali, siamo il caffettino, il dolcettino, come detto Natalino prima, mi. E quindi ceniamo alle 10:30 poi. Ah, io ho messo 4 ore fa, 20 minuti circa, ho messo il brodo di pollo, ho una voglia di brodo qua. Neanche io lo trovo il senso, solo che se è vietata è vietata. Ciao Natalia. Ciao Tony, ecco tuo almeno si capisce. È bello quello che hai tu. E delle galaxie mie, bubba, chi sono mie? Ma ormai così comprendi chi sono di. Natalia. Allontanarsi dalla linea gialla. Si capisce, Natalino? Eia, io non mi permetto di andare avanti alla linea gialla. Cava cava. Quindi Marco lì già si capisce, dai. Sì, quello sì, se scandisci, sì. Lo sentivo strano, tu parlavi io e non capivo niente. Avete parlato in due. Ma lo senti l'eco? Sì. Cava cava. Si sente. Sì, comunque c'è una bella modulazione Natalino, vero? Con quella microfono e quella radio. E poi Natalia era in risposta a me quello che hai detto, se è vietata è vietata. Sarebbe comunque dovuto rimanere a riposo. Eh sì. È colpa mia, sono qualcosa. Non si può usare. Non sapevo che c'era qualcosa che non andava, ma ho fatto finta. Non si può usare e basta. Neanche la 22 mia. Nella... Puoi usare per andare a caccia. Non la puoi usare perché. A parte che imbatte un bel, imbatti 1500 metri. E poi è troppo silenziosa. E vabbè, che sia vietata è un conto, ma con quale criterio dicono questo sì e questo no? Cioè quello fa lo stesso lavoro di quella, però quella è vietata e quella no. Perché ha la munizione troppo piccola, deve essere, e non puoi andare a caccia con quelle munizioni. Che vuoi che ti dica? Quello non è. E poi decide il governo quale puoi usare e quale no. Scusate che mi controllo il brodo. Ehi, brodo, caspita, mi piacerebbe farmi un brodo vero, anche di pollo mi, però vero, sì, carne, patate, e poi per indolenza non lo faccio, ma è così buono. Sì, l'ho fatto di pollo, patate, carne, cipolla, sedano, carote, di tutto. Sì, un cibo ho fatto, infatti. Di buono burro la zio da me, moglie. Uia, che buono. Non c'ho pazienza quando ci sono molti ingredienti io a preparare tutto. Mamma mia, vabbè. Però non c'è paragone. Prodino di mamma mi posso fare io. Ah, oh, così lo devi fare. A Roma mangi roba di badita come ti tocca. Perché a me piacciono, perché sono i piatti pronti, anche quelle cose. Non mi calmi con le 5 minuti e hai mangiato. Però non va bene. Oh, meglio quelle che non roba comunque col glutammato, col conservante, capito? Meglio allora surgelata. E cos'è il zaino? Ritte. E cos'è il zaino? Ti piace? Cos'è il zaino? Se è l'asino della crucca non è male. Chi è con questo bip corto? Ma l'Ucraina, ti piace? L'Ucraina sì. Comunque c'è un bel profumino Marco lì, già lo credo. Bien, che palle di serata, per carità, domani mi rifaccio, dai, se posso. E poi io metto col brodo, metto la carne quando la tocco, quando le verdure eccetera che ho messo da una parte, poi col brodo faccio la minestrina e ho preso fiocchetti, quelli piccoli piccoli, che mi ricordo quando ero ragazzino. Quelli, con la pasta piccola piccola a puntine, tipo, come si chiama, il succhetto, come la chiamano? No, io prendo proprio fiocchetti piccoli. Fiocchetti? Sì, farfalline, come vuoi chiamarle, piccole piccole sono, per la minestrina proprio. Ah, vabbè, sì, le conoscevo, quelle un po' più grandi, no, io non usavamo stelline, oppure meglio ancora quelli puntiformi, ha un nome che non mi viene, vabbè. Cappa. Niente, mi ho messo 4-5 carote, 4 patate, poi sedano, 5 cipolle, cosce di pollo, cosce di pollo ho messo sì, ne ho messo, non voglio, va bene. Oh, ma lo si è fatto un brodo di dinosauro? no. Mi piace i gommi nuovi. No, il brodo di Pavia. Ho messo poi, allora, un dado vegetale perché non voglio mettere molto sale se ho messo salato. Col dado vegetale, con questo pettone, ti esce perfetto. E poi ci ho messo un po' di sugo, giustamente, per il colore. E buh. Andare, dai, mi raccomando, non mangiare troppo che ingrassi. Chi sta parlando? Ogni tanto non te la mamagna, barra di bucco, vai vai. Ah, io già dimagrito, tranquillo. Emanuele, affetta la stifa, è buco. Natalia, ti so, che lui ha dimagrito, sì sì. Quando lo vengo vi grido. Se l'ha detto, mi ha dato la foto, non sei dimagrito, pensa che figurino. Ma se il bucco si ribarre che pare un ippopotamo. Sono un figurino, so. Sì sì. Comunque, Emanuele, c'hai una bella radio, Ti piace, Cappa di Rogero. Me l'hanno detto altra gente, ieri mi ha sentito anche Tino, mi ha ascoltato, confrontato prima che non mi sentiva, e niente, mi ha detto anche lui che la modulazione è perfetta. Già va bene, già va bene. Sì, sì, peloso. E a Tino, e a Betty, buonasera. Ciao Tino. Buonasera, buonasera, ciao. Ho appena acceso. Se ho sentito voi due. Ciao Tino. E anche Marcolino. Anche io che sono Bichino. E anche lui c'è, Natalinos. Ciao, ti ascolto, a voglia. Ciao T, buona serata. Un attimo che mi assento, dai. Fai Natali. Sì, affetta, due, affetta. Comunque Tino, ha visto quanto ha migliorato Emanuele? Sì, ma te lo stavo dicendo, prima ascoltavo Santiago 5, Radio 3, proprio basso, adesso è quasi 9. E la radio è buona, ottima, ha voglia. Sì, già me l'ha detto, che non poteva fare antenne e quant'altro, ma poi diciamo che è troppo basso lì, dai. Guarda che non la può mettere sul tetto perché è fatto in modo strano, ma se riusciva a mettere un'antenna buona sopra quel tetto, io penso da zia Matara un bel niente. Sì, anche via, lo grido. Ciao Tino. Ciao Marcoli, ciao a tutti, nessuno escluso. Ciao Mattare, ciao Tonino, ciao Manuele, eventuali ascoltoni anche. Vabbè. Anda bene, ogni tanto devo controllare io il brodozzo. Non mi pare vero quando è cotto che ti posso la minestrina, un po' di gas è nato e vai. Io ovviamente, sai cos'è, è buono con tutti gli ingredienti, però non ho pazienza, io per mandolini usavo quel brodo, quello in gel, come si chiama, cuore di brodo. Ma guarda Marco lì, con 10-15 minuti hai fatto tutto, ho messo 5 bottigliette di acqua da mezzo litro, perché non le uso per rubietto per fare brodo, perché il brodo io non mangio. Potrei mettere il rubietto quando faccio la pasta, perché l'acqua della pasta poi la colo e la butto via l'acqua, ma quando faccio il brodo minestrone io metto acqua delle bottigliette, capito? Acqua che bevo praticamente. E ti do 10-15 minuti, ti fai un bel brodo con le contrapalle, tutto bello fresco. Ci vuole un po' di pazienza, sì, dai. Pelare le carote, pulire le cipolle, pelare le patate. Purtroppo, se vuoi un bel brodo, lo fai come Dio comanda. Si fa di burro invece che mangiare i simpasticci. A Roma anche mangia roba di badetta. E fa bene poi, tra l'altro. Io ho detto, basta mangiare pasta al forno, ghita, che dascio, il naggio, le cattole, viene. Un po' di brodaglia già vivo, dai. Sì. Mi ne sei patate, mi ne sei fagiolo, mi ne sei lentizza, non solo brodo. La roba di Baretta bisogna mangiare, in pasticci bisogna da galli, non di so, perché ti rovini solo lo stomaco. Natalia, dopo che ha giovato carri e fagiolo, tipo la madre spezze, ma non sa che era buono. Sì, ha rubito via. La stessa roba è di quei pasticci che mangia lui. Io gliel'ho detto mille volte che si rovina lo stomaco mangiando quella roba lì. Marco lì, cos'è che ti mangi? No, diciamo, sai cosa, a me piace la roba anche veloce, la metti in microonde 5 minuti e è fatta. Più che altro roba surgelata. Non tanto in scatola, quanto surgelata, in modo che è roba che fa in fretta. Certo, il brodo surgelato non lo puoi fare. Tu lo devi fare o fresco oppure con un cuore di brodo o dado. Dado è ancora peggio però. Diciamo che a me piace la roba pesantemente condita. molto saporita, molto sale, molte spezie, molto olio, però è roba che poi ti alla lunga ti crepa. È che a me piace così, la roba insipida non mi piace. Sì, Donato, di tutto di più mi mangio, quello che c'è. Ma roba così a me non piace. Io me la faccio io, il ragù me lo faccio io ho fatto la pasta a forno da poco e ci ho messo la mozzarella di bufala, la fondina, il prosciutto cotto, cioè ne ho fatto tre teglie da 6 porzioni, messe 2 freezer, beh ti dirò che fino a ieri ho mangiato la pasta al forno, l'ho finita, adesso da domani, dopo domani me ne preparo altre 2 o 3 teglie, metto in freezer, quando ne ho voglia me ne faccio, però roba così no, a me non va bene. Sì, se a volte stai 2 ore in cucina a preparare una cosa e in 2 minuti te l'hai spazzolata. Beh, se pensi questo non fai niente allora, roba buona non ne mangi, c'ha ragione Natalina allora. No, vabbè, ogni tanto qualcosa di più elaborato, però se posso evitare. E tu se cosa li tranghi? La roba di magna, roba come ti si tocca Marco, non così, perché quelli sono pasticci, sono. E io, a me mi piace mangiare la roba.